Mix 24 di Giovanni Minoli. In America è un dato di fatto, c'è più spazio per i giovani scienziati, staff quasi completamente italiani, applicati in territorio statunitense. Io non mi sento italiano. Sono riusciti ad affermarsi in un sistema che è leader nel mondo per la ricerca e innovazione. Questo significa che gli italiani sono bravi. La decisione di mettere più fondi per la ricerca, l'università, io direi per lo studio in generale, è una decisione che il governo deve prendere. Non so che cosa sia, può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea. E una cosa da dire che forse non tutti sanno è che tutte le cose più difficili e complicate e più challenging sono state fatte da fisici italiani. L'inno nazionale di cui un po' mi vergogno. Non bisognerebbe considerare questa grande comunità italiana inserita in un sistema di eccellenza come una risorsa per il nostro paese, perché questi ricercatori si sentono italiani. Io non mi sento italiano. Sono migliaia, in effetti, i ricercatori italiani che conquistano fondi per la ricerca, ma che finiscono in atenei stranieri dove riescono a esprimere il proprio talento. Secondo alcune stime dell'Istat, sarebbero 12.000 che potrebbero diventare 30.000 entro il 2020. Tra questi, non è vero che uno su mille ce la fa, solo come dice la canzone, gli italiani che ce la fanno a questo livello sono mille su mille. Oggi vogliamo raccontare la storia di uno di loro che forse, grazie alle sue scoperte, cambierà il nostro futuro. Lui dice per costruire non un futuro privo di malattie, ma un futuro in cui si cerca di far star bene le persone. Queste parole sono di Riccardo Sabatini, 35 anni, cremonese, laureato in fisica, un dottorato a Trieste. Oggi lavora a San Diego per Human Longevity, la startup che è stata creata dall'uomo che per primo ha sequenziato il DNA. Ecco, Sabatini ci spiega come si può costruire un futuro non privo di malattie, ma un futuro in cui si cerca di far star bene le persone, cioè? Cioè, una delle strategie migliori per la futuro health care è cercare di non ammalarsi. Questa è una strategia che, per quanto sembra banale da dire, è veramente una rivoluzione cambriana nel mondo dell'healthcare, cioè, cambia di tutto. Allungare il più possibile il numero di anni sani, ecco, e questo è il nuovo paradigma ed è la nuova frontiera. Ecco, lei è stato l'unico italiano a essere invitato a parlare al TED 2016, la conferenza mondiale sulle idee che cambiano il mondo. Ha incantato tutti salendo sul palco con 175 volumi scritti soltanto con 4 lettere, le lettere del genoma. Ecco, Sabatini, che cosa ha voluto spiegare con questa trovata dei libri? Il genoma è un codice molto complesso e per assemblare un essere umano ci vogliono circa 3 miliardi di lettere, ma 3 miliardi di lettere è un numero abbastanza vuoto, non vuol dire nulla. Credo che sia un effetto visuale che ti fa capire quanto è la complessità. E sfogliando quelle pagine, quel mare di lettere, si capisce veramente la complessità e la cifratura di questo codice che stiamo cercando di craccare da 15 anni, da quando abbiamo iniziato a vederlo. E quello ha permesso a tutti di capire quant'è la libreria che richiede la lettura del genoma. Ecco, ma di questi 175 libri, noi quanti ne riusciamo a leggere oggi? Allora, li riusciamo a leggere tutti, ne riusciamo a capire pochi, ne riusciamo a capire, diciamo, il 2%. Cioè, li leggiamo ma non li capiamo? Li leggiamo ma non li capiamo. È come avere un'enorme stella di Rosetta, abbiamo il codice davanti ma non sappiamo come funziona. Piano piano stiamo costruendo know-how, tecniche, processi e stiamo istruendo macchine per impararlo. Nel 2000 lei e Venter siete riusciti a leggere il codice genetico. Ecco, però una volta letto, il passo successivo qual è? Allora, il momento in cui Craig sequenziò il suo genoma ci fu una battuta dicendo è un mondo solitario perché sono solo io ad avere il genoma sequenziato. Ed è vero, avendo un solo genoma era molto difficile andare a fare studi avanzati. Adesso iniziamo a raccogliere decine di migliaia di genomi. Questo è l'inizio per avere una libreria sufficientemente ricca e complessa per iniziare a districarsi nei segreti del codice della vita. Accidenti. Capire il codice è la prossima frontiera. È la vostra scommessa. Quindi voi utilizzate delle macchine che attraverso il sangue sono in grado di scattare una foto alla vita? Ma cosa si può predire con quella foto? L'altezza, il peso, l'età, che cosa? No, io ho portato, abbiamo portato sul palco alcuni esempi dei tratti comuni. Sì. Anche l'altezza ha una sua componente genetica, non è possibile prevederla completamente, ma ci sono dei segnali nel genoma che ci permettono di ricostruire parzialmente, certe volte con grande accuratezza, tanti segnali. I primi segnali sono i segnali comuni, poi alcuni trigger, propensioni per malattie, interazioni con i farmaci, tutta una serie di dinamiche scritte in quel codice che senza saperlo abbiamo sempre in un certo senso previsto, sapevamo che fossero lì ma non riuscivamo a tirarle fuori, abbiamo iniziato a vedere i primi segnali con... E anche le malattie future incominciamo a tirarle fuori? Le malattie sono una interazione molto complessa fra l'environment, il genoma, eccetera, eccetera. Quello che iniziamo a capire adesso è la propensione, le probabilità, quali sono le differenze fra gli esseri umani che rendono più o meno probabili alcune patologie. Mm. Poi ci sono tutti i trigger factor, e sono sempre sistemi molto complessi. Mm. Però iniziamo a discernere alcune lettere rispetto alle altre che ci permettono di far capire se c'è più probabilità o meno di alcune malattie. Questo fondamentale in una ottica di previsione e di prevenzione, di applicare best practices per prolungare la vita. Certo. Sana, che è quello che... Ma attraverso il sangue? Attraverso l'analisi del genoma, attraverso l'analisi full body scan, attraverso la raccolta, la quantificazione più alta che si può fare dell'essere umano. Abbiamo, certo, oltre all'analisi genomica, full body scan, analisi del metabolome, del microbiome, facciamo veramente il sistema, cerchiamo di quantificare il più possibile un essere umano, ecco, per poi costruire il modello più sofisticato. E quindi capire come funziona il nostro corpo, come invecchia, come si ammala, servirà a creare delle medicine personalizzate? Sì, secondo me il futuro sta già arrivando, una cosa importante è capire quali sono i business model per permetterlo di renderlo sostenibile, ma quando dice che sta arrivando... Quando dice che sta arrivando, cosa pensa? Cos'è che sta arrivando? La medicina personalizzata. Ah, il fatto che c'è uno specifico farmaco con una specifica dose, con l'FDA americana ha già iniziato a listare un centinaio di farmaci che hanno note interazioni con alcune lettere di questo codice, e ci sono casi eclatanti, ci sono casi che ancora non conosciamo, ma il futuro è andare verso una precisa prescription, una prescrizione, certo, precisa, cioè di farmaci su misura, quindi sostanzialmente per ognuno. Non sarà possibile farli esattamente su misura, ma sarà possibile modularli su grandi variazioni genetiche che perlomeno vengono condivise da un pool di persone sufficientemente ampio per essere scoperte. Il futuro è farmaci personalizzati. E quindi i segreti, le malattie, la bellezza sono racchiusi nel genoma, e quindi la prossima rivoluzione viene dalla genomica. Sì, la bellezza è una domanda più filosofica che altro, non glielo saprei dire. Anche perché quella è relativa. Quindi quello è un processo collettivo molto giusto, più sofisticato. Sì. Forse in Italia ce l'abbiamo ancora come segreto, però gli altri segreti che sono dentro il codice della vita, pian pianino stiamo iniziando a impararli. È un lavoro gigantesco ancora, siamo accidenti, molto lontani. Ma siamo molto lontani, cosa? La strada. Molto lontani cosa vuol dire? Che sono... Perché credo che il codice della vita racchiudi ancora segreti che saranno le grandi sfide dei prossimi 10, 20, 100 anni. Però abbiamo iniziato a capire qual è la strada giusta. Insomma, stiamo imparando la lingua. Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei ha detto che la stampante 3D è praticamente uguale a sua madre. Cosa significa? Ho detto che mia madre è una stampante 3D, cosa che ha dovuto digerire a una cena di Natale. E l'ha digerita? L'ha digerita, all'inizio era perplessa, poi quando ha scoperto che il motivo era in realtà affascinante, cioè c'è questo segreto della vita e questa complessità che dentro un utero succede, che è inimmaginabile, ho provato a farlo vedere attraverso i numeri, una complessità favolosa. Allora sei un po' ripreso, perché non sono una banale stampante 3D, sono una meravigliosa stampante 3D. Perché è un'unica stampante in 3D, è unica. Perché quello che succede nel processo di formazione della vita è davvero un miracolo di complessità incredibile. Appunto. Ho fatto questo conto degli atomi per far vedere che cosa vuol dire. E quanti sono gli atomi che producono la vita? Beh, se lei li mettesse in un foglio, diciamo in un Excel, li listasse tutti, questo Excel lo dovrebbe salvare una pennetta USB, riempirebbe circa 2000 Titanic di pennette USB. Vabbè, ah, non per male. Per salvare le istruzioni. Sì. Insomma, chi l'ha, chi l'ha pensata, l'ha pensata bene, quindi. L'ha pensata veramente bene. È per quello che io sospetto che ci siano ancora un sacco di cose che dobbiamo... non abbiamo neanche idea della complessità che andremo a toccare, però è exciting, è la sfida più affascinante che c'è. Quindi complimenti all'inventore della macchina così complessa. Su questo non rispondo, perché anche lì è più una materia filosofia che altro. Sicuramente quello che governa la natura è stato un set di leggi molto affascinanti. 800 24 00 24 per gli sms, 349 238 6666. Mario, insomma, la medicina personalizzata, ne parliamo spesso qui, è a un passo, è sempre più vicina, però come sempre è sempre più efficace, ma è anche sempre di più un problema economico. Certamente, noi abbiamo un sistema sanitario universale, come tutti sanno, il minimo a tutti, diciamo così, un minimo anche di qualità, bisogna dire la verità, tuttavia l'evoluzione della ricerca scientifica sta andando da un'altra parte. Sulla personalizzazione delle prescrizioni e quindi anche su un costo completamente diverso, almeno in questa prima fase. Un aneddoto. Sei anni fa in Silicon Valley mi fu chiesto se volevo fare la sequenza del mio DNA sostanzialmente. Io chiesi: ma che cosa si sa? Ma insomma, più o meno tutto, anche di che cosa potresti morire. No, grazie. Un certo tasso di improbabilità. E gli ho detto: no, grazie. Tu, Pietrangelo, diresti no, grazie anche tu. Certamente, no, grazie. Come rispetto a qualunque. A qualunque manovra sul futuro, fossero pure i tarocchi o lo sguardo, l'occhio clinico di un medico. Quindi questa ricerca non ti affascina? No, mi affascina. Ascoltando l'intervista a Sabatini mi è sembrato di risentire la voce, se mai l'avessi ascoltata, di Cartesio, le passioni dell'anima, e quindi l'idea di quella medicina che era affidata sempre all'indagine rispetto all'individuo. È una strada che è stata percorsa. Tu dicevi prima, Mario, sei un problema economico, è anche un problema culturale. Certo, l'idea, non c'è dubbio. L'idea di far sì che la medicina venga restituita alla sua vera dimensione, che è quella di essere l'indagine prima sull'uomo. E intanto tu cosa ci fai ascoltare oggi? Arriva. Ci sono, caro Giovanni, quelli che non vogliono parlare, quelli che se ne stanno seduti, li osservo in metropolitana, se ne stanno avvinghiati ai corrimano e volano ognuno verso i propri pensieri, guardando a terra come fossero allo specchio. E oggi ha chiamato Agostino Tassi, ha voluto questo brano per Artemisia Gentileschi con un messaggio: il nostro vero specchio è la notte, la nostra voce il silenzio. Mario. Ma vabbè, mi butta fuoco che mette Radiohead, basta. Mi ritiro. Oramai ti ha superato. Guarda che ride. No, è una cosa preoccupante, superato a destra. Superato vabbè. A destra. Vai con la tua bolla, Mario. Yeah. Hey, one man. Vabbè. Prova a rivaleggiare con questi, butta, adesso sono qui. Oh, Giovanni, ci siamo quasi, eh? Data molto attesa da tutti. Ci siamo. Siamo a meno due sul Brexit, o sulla Brexit, se volete. Come vanno le cose? Oramai insomma si tira a indovinare. Esatto, però i sondaggi sono, i sondaggi sono carini però da guardare. Adesso il Remain, cioè quelli che vogliono restare nell'Unione Europea, è in vantaggio di un punto. In realtà ci sono l'11% di indecisi, è un testa a testa. Nessuno può predire, diciamo, che probabilmente cosa probabilmente voteranno in tanti, quella sarà la sorpresa. Sì, sì, sì, sì. C'è stato un boom di iscritti negli ultimi settimane, sai che lì ti devi iscrivere per votare. E sarà un giovedì da leoni? Vediamo. Intanto, occhio al venerdì. Sul Guardian stamattina c'è una bella, un bell'articolo di George Soros. Come sapete tutti, per chi non lo sapesse, Soros è uno dei più grandi speculatori della storia dei mercati. Ci ha ucciso. Ha fondato la borsa, anzi il sistema monetario europeo nel 1992, causando nell'uscita dalla lira. La Banca d'Italia dovette vendere, mi pare, 48 miliardi in riserve, qualcosa del genere, per riallineare il cambio della nostra moneta. E lui dice: occhio, perché potrebbe esserci un venerdì nero. Allora, se così nero fosse, vuol dire che esce. Punto. Chi lo sa? Solo se scommette sull'uscita. Questa è la notizia. Ok. La notizia. Salamino. Oggi si fa l'elogio. Caro Mario, caro Giovanni, non si può. Sì, devi alzare perché oggi voglio elogiare Matteo Renzi. Vabbè, non è possibile. Applauso a scena aperta. Eh sì, Giovanni, clamoroso al Cibali. Non si può che celebrare Renzi, perché le nubi della catastrofe elettorale si sfarinano, la schiarita fa vedere le cose e lo spettacolo non può che rallegrare. Ah, ecco. Come Indro Montanelli teneva in bella vista un busto di Stalin, così da oggi non potrò che procurarmi un mezzo busto di Matteo Renzi, il rottamatore. Per un semplice motivo, ha regalato all'Italia non di sinistra tantissime soddisfazioni. Allora, e ve lo dico, Cascina, un grosso paese alle porte di Pisa, da sempre roccaforte del Partito Comunista e dunque recentemente in mano al PD, da ieri è passato alla Lega Nord. Cascina è stata da sempre una specie di Lourdes del marxismo-leninismo, ha generato frotte di parlamentari del PD, ma grazie a Renzi, niente, ha accolto ieri un Salvini festante. E oggi si fa l'elogio non solo di Renzi, ma anche di Marco Carrai, perché anche Sesto Fiorentino, altra fortezza dei soviet toscani, cade. E perciò nulla ha potuto il fido amico del premier che lì voleva estendere i terreni dell'aeroporto di cui è amministratore. Cade la sempre rossa Grosseto, dove il discendente di Giulio Cesare, il principe Anton Francesco Vivarelli Colonna, noblesse oblige, diventa sindaco. Cade San Sepolcro, cade Montevarchi, e un elogio lo merita senza meno la soave, la silente, la severa Maria Elena Boschi, che alle già cadute Livorno e Viareggio aggiunge il proprio feudo Arezzo. Brava, bravissima. Ancora stamattina i cittadini di Roma sentono squillare il telefono, il telefono di casa, per poi e appunto formidabile ministra che continua a dire: ciao, sono Maria Elena, sono qui con Giachetti, insomma oggi si fa l'elogio di Renzi. E raccomando agli ascoltatori la lettura del pezzo di Davide Vecchi oggi sul Fatto Quotidiano, quando dice Matteo in Toscana si perde, e da quando Renzi è segretario del partito premier il PD ha perso tutto. Vabbè, ma a Milano ha vinto, dai. Ha vinto a Milano, che era importante. A Milano ha vinto con un berlusconiano. Va bene. Vabbè, ma siamo proprio cazzeggio pure. No, fatemelo dire. Come Stalin per Montanelli, dunque non si può che celebrare Renzi. Quanti ne elimina lui di comunisti? Nessuno. Vabbè. E forse, visto che ieri ha ricevuto bottura il cuoco, viene da pensare che forse Renzi i piddini se li mangia. Dai Mario, vai con la bolla. Dirò una cosa che preoccupa Renzi. Prima però un po' di Crosby, Stills, Nash & Young. Allora Giovanni, Alex White, che è il direttore della Economist Intelligence Unit, che è una cosa molto importante perché fa i profili degli stati, quindi del country risk, del rischio paese, ed è molto visto dai mercati, ha detto: stiamo rivedendo le possibilità di Renzi di vincere il referendum in ottobre. Stiamo rivedendo, non dicono che non vincerà, eccetera, però questo stiamo rivedendo ha un grande significato, è un avviso che appunto i mercati stanno leggendo, diciamo, la situazione in Italia, e questo dovrebbe far accendere poi il radar a Palazzo Chigi. Tra gli analisti delle banche internazionali e nazionali avanza il dubbio che cosa succede se perde, e sta avanzando contemporaneamente l'idea di costituire, se sarà così naturalmente, però io lo do come, diciamo, indiscrezione di palazzo, un governo di scopo. Vedremo che cosa succede, fino a ottobre c'è tempo, per ora Renzi c'è. Gloria? Bene, e intanto per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Una canzone per chi ha deciso finalmente di lasciarsi accarezzare dalla vita, più stanchi ma più liberi, Morandi, Dalla Vita. Vita in te ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dover ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancella tutto, e rinasce un fiore sopra un faro.